A tempo di sport con Carlo Genta. Dunque sciopero, dunque ci si ferma, dunque non si gioca in Serie A, dunque potete prenotare l'ultimo weekend di agosto al mare, in montagna, al ristorante, dove ne avete voglia. Fare quello che vi pare, ma non andare allo stadio dove i calciatori non scenderanno in campo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Ne parleremo naturalmente, ci mancherebbe altro, anche perché insomma i vostri commenti sono stati negli ultimi giorni particolarmente risentiti, quindi non vedo l'ora di riconfrontarmi con voi. Non vi dico subito che non ci sarà il calcio, ma noi rispettiamo gli impegni, non abbiamo problemi di, almeno risolti da un po', problemi contrattuali per quanto riguarda la categoria del sottoscritto. Noi domani ci saremo, rispetteremo gli impegni con la programmazione di Radio 24 del weekend che comincia per l'appunto domani dalle 17 alle 18 saremo insieme, e domenica dalle 17 alle 19 per parlare di cosa? Per parlare di quello di cui stiamo discutendo, e per parlare anche cosa che faremo oggi con un ospite qui vicino a me, Giorgio Rondelli, nostro amico che saluto. Ciao Giorgio. Buongiorno a tutti. Dei mondiali di atletica che stanno per partire. Ma dunque, prima lo sciopero, non si gioca perché? Allora, cronaca spiccia della mattinata, c'è stata un'ultima mano tesa di Tommasi alla Lega Calcio, sentiamo. È la dimostrazione che noi ci teniamo a giocare con un accordo collettivo, e pur di far questo insomma facciamo probabilmente mezzo passo indietro riguardo al fatto che probabilmente, riconoscendo una scadenza così a breve, ci impone già da subito di sederci ad un tavolo con probabilmente altre premesse e un altro approccio anche da parte nostra, perché ci darebbe più tempo per discutere un accordo che credo, vedendo anche la situazione dall'altra parte, difficilmente si risolverà. Dunque Tommasi aveva proposto un contratto ponte valido fino al 30 giugno 2012 sulle basi dell'accordo raggiunto con Campana, sulla base del contratto insomma di cui si era discusso a dicembre, approvato ratificato dalla Federcalcio. Beretta ha rimbalzato la proposta al mittente, e dunque questa è stata la parola fine sulla prima giornata di campionato che a Bete si continua a definire slittata. In realtà insomma mi sembra un termine un po' di comodo, se vogliamo anche un po' viscido, perché non si tratta di slittamento ma di astensione. O meglio, secondo me, dal mio punto di vista, di serrata, perché ho l'impressione non sia distante la verità Tommasi quando dice questi non, i presidenti non hanno alcuna intenzione di far disputare questa giornata. Il perché lo discutiamo insieme, lo discutiamo con il direttore di 7 settimanale del Corriere della Sera, Giuseppe Di Piazza. Ciao direttore. Buongiorno. Giocatori che si trovano, cosa farai domenica, cosa farai nel weekend? Così diamo qualche consiglio. Beh, io sono a Pesaro per la festa nazionale del PD, quindi io sì, scenderò lì in campo come direttore, perché mi intervistano, non tanto. No, invece su questo tema, guarda, io ho delle idee abbastanza nette, sì? Peraltro che ho riassunto nell'editoriale del numero che è uscito ieri in edicola. Esatto, interamente dedicato ovviamente, sì, interamente dedicato al campionato, con Allegri in copertina. Esatto, il titolo del mio fondo era Un calcio ai privilegi. Io ritengo che questa sia una delle tante piccole caste italiane, quella dei calciatori, a cui fa da specchio in maniera perfetta la casta dei presidenti, che ha le sue colpe, sì. E insieme hanno messo in scena uno spettacolo abbastanza indegno per chi lavora in Italia a reddito fisso, che fatica per arrivare a fine mese. Ed è uno spettacolino per miliardari, perché è vero che Tommasi rappresenta 15.000 calciatori italiani, tra cui moltissimi delle serie inferiori, che guadagnano meno di un qualunque precario. Mi scuso per il motore a due tempi che i nostri ascoltatori stanno apprezzando, ma è un bellissimo motore antico a due tempi, di una vecchia Vespa. È il bello della radio, i rumori, lo sai bene, sono il bello della radio. No, quindi è una... La verità è che poi Tommasi sta difendendo la persona per bene, qual è? Perché io poi ne ho grande stima, insomma, ricordo i suoi gesti, andare in campo a 1.500 euro al mese in Serie A, sì. Poi di andare, insomma, sta difendendo alla fine i miliardari, perché è uno scontro tra titani miliardari, che quelli non vogliono pagare le tasse, i calciatori, i presidenti che non vogliono pagarle per conto dei giovani miliardari che amministrano. Poi peraltro parlare di sciopero un po' mi innervosisce, perché mi pare che sia l'unica categoria al mondo che sciopera senza rimetterci una lira, quella dei calciatori, perché hanno ragione, verrà differita, la giornata verrà recuperata. Anche perché, se no poi bisogna spiegarlo a Sky, che oggi avete paventato questa ipotesi di sciopero a oltranza, poi se Sky si presenta con una, un esercito di avvocati e gli fa causa, vediamo. Di Serie A, bravo. Gli può confiscare la Juve, la Milan e l'Inter. No, volevo ieri ne parlavo con Maurizio Crosetti e ci trovavamo abbastanza d'accordo su un punto. Questo delle tasse mi sembra è un punto reale, però è una tassa ancora ipotetica, quindi sì. non so se sia possibile nemmeno inserirla nel testo di un accordo collettivo. Mi sembra però che i presidenti abbiano alzato il muro, che i giocatori si trovino in questo momento in una posizione di estrema debolezza per l'opinione pubblica, sono gli odiosi bastardi senza gloria, i miliardari che non vogliono pagare le tasse, sono questi ragazzotti stupidi e pieni di soldi. I presidenti sorridono sempre di più, sono sempre più potenti, preparano la fronda ad avete. Ho l'impressione che sia una... sia in corso un gioco politico più che una partita di calcio. La partita è grossa, è sulla federazione, c'è anche una partita aperta sulla Lega, peraltro, anche dei rapporti di potere all'interno tra loro presidenti, come si dice, quello che succederà dopo Beretta. Ma insomma è uno scenario dinamico in cui è vero che il problema del contratto nazionale collettivo dei calciatori può essere un piccolo cavallo di Troia utilizzato per scardinare altre cose, buttato lì nel campo avversario per fare un po' di caos. Questo è bellissimo. Dopodiché resta la sostanza che nella percezione dell'opinione pubblica i calciatori, almeno quelli di Serie A e direi anche di Serie B, non sono certo dei lavoratori che possono impietosire chi la mattina si sveglia e va a farsi, come si dice, il mazzo per 1.200 euro al mese. Questo no, direttore, allora, però ieri si diceva, e mi trovo anche qui d'accordo con Maurizio Crosetti, si diceva che a prescindere dallo sproposito che guadagnano, qualche dirittuccio ce l'hanno anche loro e fanno bene a farlo valere. Per esempio, più che sulla questione delle tasse, sulla questione dei fuori rosa, parliamone, perché non mi sembra che da quel punto di vista abbiano un torto totale. Ma è nel momento in cui il contratto, se io fossi un calciatore sarei esattamente come una rockstar. Le rockstar hanno moltissimi doveri verso il loro pubblico, hanno moltissimi diritti verso chi li paga, nel senso devono incassare, dopodiché non li potrei tutelare. Una rockstar come riesce a tutelarla? Come fosse un impiegato metalmeccanico? L'obbligatorietà della copertura sanitaria, il diritto all'armadietto? Cioè, onestamente, se io gioco in Serie A corro il rischio, sono strapagato, e corro il rischio a un certo punto che venga messo fuori rosa, mi pagano lo stipendio, sono un disoccupato di lusso, sono una rockstar che nessuno scrittura per un po' di tempo, pazienza, c'ho uno stipendio che mi compensa di questi rischi. Se io fossi un lavoratore da 2.500 euro al mese, cioè un buon quadro italiano di un'azienda media, se mi lasciano a casa si chiama mobbing. Sì. Ecco, il mobbing nel calcio è un concetto che confina con l'arte, con l'arbitrarietà degli allenatori, che devono avere anche il loro diritto a fare i loro errori. Con l'infungibilità di questi prestatori d'opera, tu dici. Sinceramente. Cioè quindi dici il rischio è compreso nel prezzo? Il rischio è compreso nel prezzo. Il rischio di giocare nella Roma in questo momento ha un bel prezzo. Chiudiamo con la Roma, direttore. Chiudiamo con la Roma. Roma che frigge, che vuole la testa di Luis Enrique, te lo chiedo come osservatore interessato naturalmente, che non so quanto sia un grande allenatore Luis Enrique, di sicuro ha una presunzione e un ego discretamente sviluppati. Sì, beh, se allenasse per quanto è presuntuoso, secondo me potremmo anche, io dico potremmo perché io poi sono notoriamente un tifoso romanista, potremmo insomma ambire alla Champions, insomma. Mi pare, cioè l'uomo promette bene da quel punto di vista, nel senso che c'è da far impallidire tanti altri special one in giro per il mondo. No, sai, special one però c'aveva dietro un presidente che ha speso 200 milioni di euro e uno squadrone che ha portato a casa triplette. Questo special non so che cosa di Luis Enrique, ottimo centrocampista ai suoi tempi, ma per ora ha allenato il Barcellona B, che è fatto di giovani fenomeni, sì, stiamo parlando sempre di ottimi giovani fenomeni, in un campionato parallelo dove l'anno scorso ha portato a casa un'enorme quantità di vittorie, ma anche di gol incassati. Adesso vediamo se vince Braccio di Ferro con Totti. La vedo dura. Braccio di Ferro con Totti la vedo molto dura, perché ieri, per esempio, avendo visto la partita, l'ultimo che avrei sostituito è Francesco Totti. È evidente. Cioè, c'era un Bojan assolutamente che non si reggeva in piedi, lo metti fuori, gli fai anche del bene, un ragazzo, gli dai il cambio, lo fai respirare, come altri ragazzi hanno chiesto il cambio in quella partita. Ma lì dovevi vincere, hai bisogno di un po' di esperienza, avevi una panchina con Taddei che guardava, scalpitava e si mordeva, si mangiava le unghie. Cioè, è veramente un dispiacere vedere trattare la Roma in questo modo. Dopodiché è un progetto che forse fra 4 anni darà ragione alla nuova proprietà. Si sta puntando su un gruppo di ragazzi giovani e alcuni di bella qualità. Certo, non sono i fuoriclasse che si vedono in questo momento in giro per il mondo, nei pari età, non sono Walcott, insomma. Sono giocatori interessanti. Sicuro. Uno come Boia non ci lavorerei volentieri. La mela, Capari, la mela, ecco, la mela mi dicono grandi cose, ne parlavo con Fabio Caressa, diceva grandi cose, insomma. Voglio vederlo in campo, vediamo come si comporta, mi sembra forse il più dotato fra tutta questa nuova genia. Però insomma, Luis Enrique dovrebbe, cioè o lì c'è un'operazione, come l'ho anche detto un'altra trasmissione, ma insomma un'operazione di normalizzazione della Roma, in cui si è deciso dopo tanti anni di spianare tutto, di prendere un allenatore giovane, diciamo con la delizia, col passo delizioso dell'irresponsabile, che può benissimo far fuori anche un totem come Totti. Allora, si è deciso di normalizzare, detottizzare la squadra, che onestamente in questi ultimi 10-15 anni ha girato intorno a questo fulcro straordinario, il più grande calciatore italiano. Certo, anche dal punto di vista, insomma, dell'immagine, no? Totti è la Roma e Totti è la tifoseria romanista. Ha dei piedi che in Italia non si sono visti tanto, ma sicuro, di quella qualità, ha segnato come nessun altro nel campionato, poi fatto salvo i Nordal, Piola. Ok, però insomma, di quelli, diciamo, di cui noi abbiamo generazione. Sicuro Totti è la Roma, è stato la Roma. Adesso non so se si tratti di detottizzare tutto quanto, però certamente si tratterà di fare chiarezza. Direttore, ti devo salutare perché mi devo interrompere. Grazie molto della telefonata. Un abbraccio. Grazie a Giuseppe Di Piazza, direttore di Sette, con cui abbiamo intavolato questa discussione. Già tanti ascoltatori in linea, 800 24 00 24. Invito Giorgio Rondelli qui con me a mettersi nel metto, perché tra poco toccherà rispondere a agli ascoltatori neri, io credo, per lo sciopero. Beh sì, ne parliamo tra un attimo, dopo il traffico. Ti dico subito, caro Giorgio Rondelli, che io non sono così d'accordo col direttore Di Piazza su un punto, cioè sul fatto che nel compenso sia compreso l'azzeramento dei diritti dei calciatori. È vero, guadagnano tanto, sono privilegiati, però qualche diritto devono pur averlo anche loro. Beh, sicuramente, insomma, poi tutto il resto è chiaro che uno sciopero dei calciatori, anche per quello che non va a approfondire i problemi calcistici, Carlo, è impopolare, no? Perché è impopolare, certo. E poi come tu hai sottolineato, devo dire che la vicenda non mi suscita particolari entusiasmi. Evidentemente poi ci sono delle lotte di potere pronto fra Lega, presidenti, effettivamente i presidenti hanno sempre avuto molto potere nel mondo del calcio, però mi sembra che negli ultimi anni, anche con quel bombardamento televisivo che c'è intorno, l'hanno avuto sempre di più, sono sempre loro i protagonisti. E si divertono come i matti. Si divertono come i matti, perché poi sono degli imprenditori, ma così tanto non sarebbero mai apparsi nel loro lavoro come per il fatto di essere presidenti. Poi c'è chi è... Guarda che estate ci ha regalato De Laurentiis. De Laurentiis, oppure la quotidianità degli interventi di Massimo Moratti. Sì, che credo fosse un po' annoiato dall'egemonia di Mourinho, e credo che insomma alla fine, quando lo Special One ha detto vado via, ha detto vai così ricomincio a parlare tutti i giorni, 2 volte al giorno sugli uffici della Sala. Io da non addetto ai lavori, hai detto così, quello che invece, diciamo, tutto sommato mi sono gustato in questo calcio estivo, sono state partite come Udinese-Arsenal o Arsenal-Udinese. Ho visto una bellissima partita ieri sera di Serie B, di grandissima intensità, ma anche di grandissima qualità fra Sampdoria e Padova. Gran bella gara con un gol di Milanetto veramente straordinario. Tra l'altro ed è più tua materia, correvano come i matti. Ho visto una partita anche dell'Udinese, anche Udinese Arsenal. Vedo squadre molto ben preparate all'alba della stagione. Beh sì, l'Udinese, diciamo, Guidolin è sempre stato un grande cultore della preparazione atletica, tant'è che il suo preparatore, una persona che conosco bene, si chiama Delio Diamante ed è stato un mezzofondista azzurro negli anni 70, quindi da cominciare dal Vicenza e poi passando per Palermo, per il Bologna, tutte le squadre che ha allenato, l'intensità, anzi forse fin troppa, perché poi in certi periodi dell'anno la squadra andava fuori condizione. Adesso, oltre alla quantità, cioè alla condizione atletica, ha trovato sicuramente un centrocampo di altissima qualità, cioè con questo 3-5-2 a centrocampisti di velocità che saltano l'uomo, e poi confronto all'anno scorso e gli manca il signor Sanchez, perché avesse avuto il signor Sanchez vicino di Natale forse ce la poteva fare, se no poi si è visto che il pur disastrato Arsenal comunque quando è entrato Rosicchi Van Persie e gli altri avevano Sembra l'Arsenal più, insomma, meno competitivo, meno performante degli ultimi anni, assolutamente quando perdi dei giocatori importanti come Fabregas o Nasri cala, però si vede l'abitudine a giocare nei momenti difficili, e non a caso credo che sia il 14° anno che partecipa consecutivo che partecipa alla Champions League, non a caso. Allora cominciamo dagli ascoltatori. Michele da Roma, buongiorno. Buongiorno signor Genta, sai una cosa, io ho già fatto qualche intervento alla trasmissione quando c'era il dottor Granfini. Sì. E così scherzando gli proponevo di fare un training per giornalisti radiofonici e conduttori. Chiaramente era uno scherzo, però la cosa importante è che lei fa questo mestiere, secondo me, nella maniera giusta, cioè sapendo benissimo che il calcio non è altro che uno specchio della nostra società, e seguo volentieri la sua trasmissione perché è anche brillante. Allora, dopo questo pistolotto, il mio intervento era sui presidenti di calcio in Italia. Allora, noi italiani siamo abituati, no, ad essere pro o contro, però siamo disabituati purtroppo ad essere informati. E l'evoluzione del presidentismo italiano, io ho più di 50 anni, quindi qualcosina dei vecchi tempi me la ricordo, è stata che negli ultimi, diciamo, 10-15 anni abbiamo avuto dei personaggi, e faccio i nomi, Cragnotti, Tanzi. No, ma li sappiamo, Michele, tralasciamo i nomi, eccetera, che hanno combinato di tutti i colori. Tralasciamo i nomi, tanto li conosciamo tutti, inutile fare l'elenco. Quello che io voglio dire è questo, leggo sui giornali sportivi, tra l'altro noi penso che siamo l'unico paese del mondo ad avere tre giornali sportivi, questo è noto, un sacco di demagogia. Sì. Io credo, io sono un dipendente statale, quindi più che invidioso sono rassegnato al mio status economico, penso che invece abbiano ragione i calciatori, e penso che il fatto di fare questo sciopero, slittamento, eccetera, eccetera, sia una cosa importante, perché chi lavora per un altro ha diritto alla sua dignità, anche se prende una baracca di soldi. Sì. Poi sappiamo benissimo che queste baracche di soldi sono aumentate nel giro dei decenni per la TV e altre cose. Certo, non vorrei mettermi a parlare del troppo che guadagnano i calciatori, perché qui rischiamo di cadere nel pentolone, nel mare anzi, della demagogia. Guadagnano troppo, guadagnano quello che il mercato permette loro di guadagnare, e al di là di tutta l'invidia del mondo che proviamo, dichiarata, se siamo onesti, torno a ripetere quanto detto prima: non è che perché uno appunto guadagna un sacco di soldi sia costretto a non avere diritti, sia relegato all'ambito di quelli che di diritti non ne hanno più. Ti pago e dunque fai quello che dico, e dunque non ti lamenti, bocca chiusa e pedalare. Non credo che sia così, credo che qualche diritto ce l'abbiano come altri lavoratori che guadagnano assai di meno. Certo, ci fa invidia, certo, diciamo, ma con quello che guadagna giochino e stiano zitti. Non è proprio così, almeno questa è la mia posizione. Secondo me lo sciopero tout court è uno strumento estremamente di protesta e rivendicazione estremamente antiquato, ma questo vale per tutti ed è esclusivamente una posizione personale. Detto questo, in tale situazione adesso i calciatori si trovano in una posizione di estrema debolezza. In quella posizione di estrema debolezza, con tutta la consapevolezza del mondo, ce l'hanno messi i loro datori di lavoro, perché ha ragione Tommasi quando dice: qualunque cosa avessimo proposto ci avrebbero rimbalzati. Michele, la ringrazio. Paolo, sempre provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. La verità è che gli argomenti sono talmente tanti che uno certe volte perde anche di vista quelli che vorrebbe trattare. Diciamo, mi dica di Totti allora. Assolutamente no, io sono tifoso del Napoli, per cui... E quindi di Totti se ne frega bellamente. No, non me ne frego bellamente, io penso che Totti abbia dato moltissimo a Roma, penso che ieri l'allenatore abbia sbagliato a toglierlo, perché probabilmente poteva togliere più Bojan che ieri arrancava. Però l'allenatore, lui ha un progetto che ha studiato insieme al presidente e alla dirigenza della nuova Roma. Vogliono seguire quelli che sono i nuovi dettami del fair play economico con di Platini, non vogliono fare la fine del presidente che c'è stato prima, che per colpa di una società di calcio ha incominciato ad avere problemi anche della natura economica, tant'è vero che poi... No, ma al di là di quello, si tratta di... la Roma è una società appena nata, ho l'impressione che abbia sbagliato allenatore, però non ho ben chiaro il fine che stiano perseguendo, insomma, no, io sinceramente lascio stare. No, io invece volevo soffermarmi su un'altra situazione, che è una situazione diversa, nel senso che lei ce l'ha un po' col mio presidente e certe volte... Io lo adoro. No, vabbè, lasciamo stare, perché sicuramente lei l'adora, perché... Dal punto di vista mediatico, dal punto di vista... Perché sicuramente ha delle modalità non particolarmente corrette d'esposizione di quelli che sono, però situazioni reali, di fatto. Lei ha annunciato all'inizio che l'ultima mediazione che Tommasi aveva provato a fare è fallita. La mediazione che Tommasi ha provato a fare era la proposta che De Laurentiis aveva fatto a Tommasi, cioè nel senso è stato De Laurentiis a fare quella proposta a Tommasi. Certo. Ha detto a Tommasi: proviamo a fare in questa maniera. Infatti, su questa posizione De Laurentiis era d'accordo, era d'accordo anche oggi, però il fatto è che i presidenti hanno deciso di andare allo scontro, a muro contro muro, perché così facendo si troveranno. A ripresa dei giochi, non credo alla paura, all'incubo paventato oggi da Abete di uno sciopero ad oltranza, perché sennò Sky appunto si presenta con un plotone di avvocati e gli leva anche le mutande ai presidenti, e credo però che in questa vicenda adesso i calciatori si trovino, da un punto di vista anche mediatico, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, in una posizione di estrema debolezza. In questa posizione di estrema debolezza proveranno a far valere i loro diritti, anche se c'è chi scrive: ma quali diritti, mi faccia piacere? No, allora leghiamoli col collare, Giorgio Rondelli, al campo di allenamento con la palla, non quella da gioco, ma quella al piede. Sì, è vero, sono finiti un po' in un angolo. Poi, prima abbiamo parlato anche tu hai parlato di mobbing, no? Si è visto anche un paio di anni fa, quando Lotito aveva fatto il pugno di ferro con Pandev e Ledesma alla fine. Io sinceramente non capisco perché tu debba essere costretto a firmare il contratto per l'anno prossimo quando è ancora un contratto in corso, altrimenti ti metto fuori rosa e non ti faccio più giocare. Esatto. Secondo me questo è discretamente intollerabile. Tant'è che poi il tribunale dell'arbitrato ha dato ragione, e Pandev si è tutto svincolare. Ma come giusto, cioè situazioni di questo tipo, secondo me, dal mio punto di vista non sono accettabili, e i giocatori fanno bene a cercare di porre dei limiti a situazioni di questo tipo. Ci fermiamo per la borsa, un sacco di ascoltatori in linea, 800 24 00 24, e poi cominciamo anche a chiacchierare di questi mondiali atletiche, di questi 100 metri decapitati in mano a Usain Bolt, la copertina dei mondiali di Daegu che cominciano stanotte alle 2 con la maratona femminile, e domenica vedranno i 100 metri, avranno una sola superstar e tutti gli altri a far tappezzeria. A dopo. Torniamo insieme, Michele da Padova, Vincenzo da Napoli, Lorenzo da Brescia, Pietro da Milano, Marco provincia di Cremona, ascoltatori che sono già in linea, con cui tra un attimo parleremo. 800 24 00 24 è il numero verde. Ma io prima volevo l'opinione di Giorgio Rondelli, volevo aprire una prima finestrella sui mondiali di atletica che tra l'altro racconterai in televisione, come sempre. Ma Finestrella, beh, è chiaro che tu mi vai questi 100 decapitati, questi 100 che ci privano di più, Carlo, più che decapitati, praticamente fai conto che mancano i 4 migliori tempi mondiali per motivi vari. I primi due, Asafa Powell e Tyson Gay, per problemi, uno all'anca, quello di Tyson Gay che non c'è neanche a Daegu, e invece Asafa Powell ha questo problema agli adduttori e forse potrebbe essere recuperato per la staffetta che si corre alla fine della prossima settimana, sì, quindi il 4 settembre. E poi ci sono fuori invece anche il giamaicano Mullins e Rogers invece per problemi legati al doping, quindi una finale, la gara più attesa, decapitata, tutto a vantaggio di un Usain Bolt che ho visto gareggiare nella Diamond League 6 volte e non è mai stato travolgente, anche se ha sempre vinto, quindi credo non aspettiamoci nessun primato del mondo da parte sua, perché cioè, dal punto di vista tecnico sarebbe clamoroso, visto che ha corso in 9.88 rispetto al suo 9.58 e 19.88 rispetto al suo 19.19, sì. Quindi è molto lontano, però lui si accontenta di vincere, è un personaggio ormai diventato... Planetario. Se pensi che al meeting di Oslo le povere tripliste, cioè a livello mondiale, dovevano finire la gara e piovigginava, lui è entrato nello stadio con una decappottabile nonostante la leggera pioggia, ha cominciato una musica reggae e queste qua sono state ferme 10-15 minuti in attesa, così tutto il pubblico in piedi a ballare il reggae, lui in tasca $250,000 a gara Ma quanto guadagnerà? Hai un'idea di quanto possa guadagnare Usain Bolt? No, perché guadagna tanto mica solo i calciatori. Io dico quanto può valere Usain Bolt, così a spanne? 7-8 milioni di euro almeno, sì. 7-8 milioni di euro? Sì, sì, e io penso di sì, perché solo i contratti con la Puma, gli ingaggi e tutte le altre cose, sì. Già 4 gare fa $1 milione. $1 milione, scusa. E questo lo dice il mercato. Ma sai, poi lui quello che è bello in tempi come adesso, una volta sarebbe visto qualcuno un dissacratore dei momenti particolari dell'atletica leggera, invece lui è uno che piace anche ai giovani, perché va sulla riga di partenza, fa lo show. Adesso, prima gli era naturale, adesso probabilmente ci gioca anche un po' su, però poi si mette sui blocchi e corre. Però sono i bacchettoni che dicono ma che scene fa quel pagliaccio lì, a me piace, mi piacciono i personaggi, ma perché anche si deve a parte che da quando ha cominciato a farlo lui si è visto anche che così della gente triste di natura come lo stesso Powell lui, così non ha cominciato a farlo, l'unico che invece era rimasto sempre concentrato, infatti lo odia sportivamente in maniera terribile ed era l'avversario più duro, era Tyson Gay. È una persona diversa. E per concludere questo discorso sui 100, Carlo, c'è da dire che perché tanti infortuni nella velocità? Perché queste piste di ultima generazione sono straordinariamente performanti, però solo violentano muscoli, ossa, tendini, articolazioni, e gareggiando spesso, ma soprattutto allenandosi spesso su queste piste, ci si fa male. Ragion per cui lo stesso Bolt molti allenamenti li fa sull'erba. Rispetto alla cara tennisolite di Berruti, ho fatto un conto, quando ha vinto a Roma in 20,75, lui visse in 25 manuale, avrebbe Bolt gli avrebbe dato 16 metri di distacco, 4 metri ogni 50 metri, ma lì era tutto un lavoro di caviglie, così. Qui invece... No, secondo me io sono contrario ai confronti epocali, Giorgio. No, no, anch'io. Epocali perché anche la razza umana si evolve, quindi non esistono proprio. Però anche calcisticamente, certo, anche dal punto di vista tecnico. Cioè un altro sport. Ma era solo per dare una dimensione di un atleta straordinario come Livio Berruti, che si allenava 2-3 volte alla settimana quando c'aveva voglia. Adesso c'è solo, se pensi che i mezzofondisti si allenano 3 volte al giorno, quindi... E hanno voglia sempre, o quasi sempre. Michele da Padova, torniamo agli ascoltatori. Buongiorno Michele, dica. Buongiorno a tutti. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e una premessa, mi associo a quello che è già stato detto precedentemente, cioè che il calcio in Italia è lo specchio un po' della società. Sì. Tant'è che io invito lei e molti ascoltatori a leggere un libro scritto da una persona che si è esperta di diritto societario, che si chiama Guido Rossi, che tanti anni fa aveva scritto un libro che si intitola Il conflitto epidemico e che parla di tutta una serie di problematiche, ma è leggibilissimo, quindi è anche piacevole leggere, e alla fine fa un ragionamento secondo me che calza moltissimo con quella che è la situazione generale, compresa quella del calcio, e cioè che l'etica non ha niente a che fare con gli affari. Sì. E quelli che sono i contratti di oggi dei calciatori al massimo possono essere immorali, cioè possiamo non condividere quanto certo. guadagna oggi un calciatore, sì. però l'affare ha, ha una finalità di mettere d'accordo due persone che cercano di trovare la migliore convenienza sì, comune. Sì. Ecco, quindi sì, sì. fino a quando calciatori e società non troveranno l'accordo, non lo troveranno. Sì, sì. Quello che trovo scandaloso oggi è, ad esempio, che in un paese come il nostro, visto quello che sta succedendo, non si facciano vedere altri sport, la pallacanestro, la pallavolo. Io mi ricordo vedere televisivamente, lei dice? Esatto, sì, è scandaloso. Io mi ricordo quando cominciò qualcuno a far vedere il basket, io mi innamorai del basket. Ah. Beh, però Michele, per la verità, insomma, non allora, far che vedere... Senso ha, che senso ha che tutto giri intorno a uno sport come quello del calcio, che evidentemente, proprio perché gira tutto intorno a lui, fa girare tutta una serie di cose, se è questo quello che vogliono, cominciamo a far vedere, a far girare le cose intorno agli altri sport. Sì, Michele, però qui caschiamo nel discorso che io condivido totalmente e che lei ha innescato prima, anche qui ragioni di domanda e di offerta. È anche vero che insomma quest'anno ad esempio il basket torna sulla Rai e non ne ha una convenienza economica, ma almeno diretta ed immediata, perché non avrà i soldi di Sky. È anche vero che c'è apertura agli altri sport, è anche vero che abbiamo di fronte un settembre di grandi eventi, basket che abbiamo gli europei che cominciano il 31 e che vedremo appunto sulla Rai. Abbiamo di fronte, io ho di fronte Giorgio Rondelli che vi racconterà attraverso i microfoni di Eurosport, di Sport Italia. I mondiali di atletica che vanno a cominciare, abbiamo gli europei di pallavolo, insomma abbiamo un autunno di grandi sport che vedremo senza dover pagare canoni e abbonamenti. Quanto al resto è semplicemente anche qui una questione di domanda e di offerta. Vincenzo, Napoli, buongiorno. Mi abbassi la radio che sennò non sento ritorno in cuffia, grazie. La radio è a zero. Benissimo. Dicevo, innanzitutto volevo fare una premessa, perché insomma, il momento storico nel quale si trova il paese, diciamo il paese Italia, sentire parlare di scioperi, francamente mi vengono un po' i brividi sulla schiena, perché l'industria del calcio fa parte comunque, contribuisce comunque alla crescita del PIL, la cui crescita già è negativa per... Vincenzo, però discorso che estendiamo anche alla Spagna, giusto? Ma in toto, cioè parlare di scioperi in questo momento storico per il paese, per l'Europa, in generale, secondo me è una cosa irresponsabile, perché comunque, ripeto, il calcio è un'industria, sì. Attorno all'industria del calcio girano la pubblicità, le radio, i giornali, tutto, sì. C'è tutto... diciamo una serie di cose che chiaramente infatti è anche improprio parlare di sciopero, perché questa prima giornata ovviamente non verrà cancellata ma verrà recuperata in altra data, che sarà con ogni probabilità prima di Natale, no? Abete non ha ufficializzato la data di recupero, però è probabile sia il 21, se non ricordo male, di dicembre. È chiaro che questa data non verrà cancellata per il motivo di cui sopra e che cui lei fa riferimento, cioè di tutto quanto gira intorno al calcio, in primis le TV, perché quella prima giornata l'hanno pagata e quindi quella prima giornata la vogliono vedere giocata, e non c'è senza se e senza mai, non c'è Santi, no Giorgio? Eh beh, assolutamente, beh, anche perché poi la classifica non sarebbe veritiera, no, non esiste. Non ha senso parlare, sì. Non ha senso parlare di sciopero, tanto che questa giornata verrà giocata, i giocatori, con buona pace di tutti quelli che sono già arrabbiatissimi, non ci rimetteranno un euro in questa storia. Certo, sì. Sarà forse solo un aggravio fisico per le squadre impegnate magari... perché avranno più partite ravvicinate chi fa la Champions. Sì. Anche se guarda, io penso che sono convinto del fatto che dietro questo no secco del fronte del presidente ci siano anche motivucci proprio contingenti, ad esempio il mercato che non è ancora chiuso, gli infortunati da recuperare, penso ci siano anche calcoli della serva di questo tipo. Beh, in effetti è vero, sì, perché una settimana in più... Che poi sono due. Sono due, e quindi puoi davvero recuperare tanti infortunati, smaltire, ottimizzare anche la preparazione atletica. Ottimizzare la preparazione atletica, arrivi più pronto. Infatti. Cellino invece voleva giocare perché c'ha il Milan e ci teneva, eh. E sì, è meglio prenderlo subito. Meglio, lo prendiamo subito in casa, stadio pieno, poi magari a dicembre chi lo sa. Chi lo sa. Ci fermiamo, traffico. A tempo di sport. Chiave mondiale, tra poco vorrei parlare con te, Giorgio Rondelli, anche della, dei brividi che attraversano la spedizione italiana reduce dalla, dallo zero di Berlino di due anni fa. Zero titoli, zero medaglie proprio. Andiamo coi brividi verso questa spedizione coreana. Lorenzo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, ascolti, io vorrei dire una cosa. Deve stare attento un po' col programma perché sta andando un po' sul sociale, sinceramente, sì. Perché comunque non è vero che altri lavoratori hanno diritti, questo glielo posso assicurare io, tanto che mi fanno i contratti settimana a settimana e poi, vabbè, ma lasciando perdere questo, cioè non ho capito il perché vogliono fare lo sciopero. Lei ha detto prima le tasse, ma le quali tasse sono quelle che pago io? No, perché comunque sulla televisione. No, Lorenzo, non ho. Ecco, è sul contributo di solidarietà, che peraltro è una tassa ancora eventuale, no, non è ancora. Non è ancora legge dello Stato, non è chiaro su chi debba pagare questa, questa tassa, si discute tra il calcolo dello stipendio al lordo come sarà in futuro e a quel punto la tassa sarebbe a carico dei giocatori, quelli hanno già detto che la pagheranno, e lo stipendio al netto come si faceva prima, e in quel caso il contributo di solidarietà eventuale sarebbe a carico della società, non è che non vogliono pagare le tasse. Okay. E poi un'ultima cosa, sì. Carlo, lei ha parlato prima di demagogia, ma sì. Com'è che sto demagogia come prezzemolo? Per nascondere la realtà si parla di demagogia, io arrivare al 15 il mese prossimo... Ho due figli. Ma lo so, Lorenzo. Ma 500 euro. Ma questo non è demagogia. Questa è la realtà. Lorenzo, ma lo so che è la realtà, ma cosa possiamo fare? Usain Bolt guadagna 250.000 dollari alla settimana. Tutti noi vorremmo, me l'ha detto Giorgio Rondelli, tutti noi vorremmo essere Usain Bolt. Molti di noi fanno fatica. E molti di noi sono giustamente incazzati perché questi non giocano a pallone e guadagnano un sacco di soldi. Però questo cosa vuol dire? Cioè, come risolviamo il problema? Li leghiamo in piazza? Ma secondo me comunque certe cifre dovrebbero essere distese un po' a tutti, perché ci sono comunque giocatori sia del basket che uno che l'altro che non possono emergere, perché? Perché ci sono le lobby di questi qua o quello che è. Ma non lo so, il discorso è che gli sportivi sono lavoratori, sono prestatori d'opera infungibili e guadagnano un sacco di soldi, perché se uno domani mi licenziano, come facendo magari felici molti di voi, ne mettono un altro al mio posto che riesce a che fa lo stesso lavoro. Invece un giocatore, per un giocatore o per Usain Bolt non è così, perché quelli sono superstar. Come andiamo a Daegu, Giorgio? E come andiamo la spedizione italiana a Daegu? Beh, intanto cominciamo alle cifre: 33 atleti, portiamo 33 atleti, che è il numero 16, 17 maschi e 16 donne, che è la spedizione più meno corposa di sempre. Tre sono riserve. Abbiamo una delle nazionali più anziane, un'età media di oltre 28 anni, e siamo, diciamo, un po' aggrappati alla Di Martino, un po' nel salto in alto. Perché poi tutti gli altri qualcosa si possono inserire, si può inserire Vizzoni che ne ha 37,5 nel martello e nelle 5 misure, si può inserire Donato nel triplo. Marcia maratona? Beh, la maratona abbiamo un solo atleta, Pertile, che ha già 37 anni, però con tutti i keniani, gli africani e quant'altro non ha nessuna possibilità, c'è gente che fa 3-4 minuti di meno, quindi è l'unico atleta che tra l'altro abbiamo. E poi abbiamo la Lamantia nel triplo, però se le 4-5 migliori saltano vicino ai 15 metri, anche lei è un po' tagliata fuori, sono un po' queste, la staffetta 4%. Anche qui, certo, se poi Giamaica si va a scontrare contro gli Stati Uniti e buttano giù anche zero titoli anche stavolta. No, beh, io penso che uno degli outsider possa prendere una medaglia, ripeto i nomi che ho fatto. La Di Martino ha saltato 2 metri, c'è una Vlasic Dolorante che ha saltato 2 metri e solo la russa Cicerova che ha saltato 2,7 reduce dalla maternità, e dietro c'è il vuoto, c'è un sacco di assenti anche in questa gara. Anche se poi però le medaglie poi bisogna conquistarle tu, sul campo. Tu conosci la mia passione estetica per Blanka Vlasic. Blanka Vlasic è un atleta che poteva fare il record del mondo e ha cercato di monetizzare molto negli ultimi 4-5 anni, ha fatto tutte le gare, tutti i meeting possibili, tant'è che è andata un po' in spremuta. Si è un po' spremuta, problemi fisici, e adesso quest'anno ha saltato solo una volta 2 metri, misura che lei ha saltato circa 100 volte in carriera, fai conto. E quindi sembrava non gareggiasse, invece ci vuole essere, c'è sempre la classe per arrampicarsi sul podio, anche magari per vincere. Certo, se la russa salta di nuovo 2-7, vince lei. Sicuro. Ecco, questa è un po' la situazione. Pietro Roma, buongiorno. Milano, Pietro Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Mezz'ora fa aveva chiesto se qualcuno parlava di Totti. Finalmente sì. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Allora, io non capisco questo allenatore. Io da giugno che lo dico. Un allenatore che ha fatto, ma perché penso così per tutti gli allenatori, ha allenato il Barcellona Serie B e si ritrova ad allenare la Roma. Io non lo trovo giusto. Posso fare una domanda? Sì. Cosa ne pensa di Conte alla Juventus? Ma già Conte alla Juventus ha fatto la sua esperienza, ha già allenato qualche squadra, questo qua ha fatto la Serie B spagnola e deve ad allenare da noi. No, ma senza però, e poi su Totti, io per quello che ha fatto Totti per me, cioè l'emozione che mi ha regalato, deve giocare tutta la vita, anche se andiamo in Serie B. Per gratitudine quindi? Sì, perché lo merita. Però ieri l'ha fatto giocare a centrocampo. No, ma ieri togliere Francesco Totti in quella situazione, secondo me, è stata proprio una dichiarazione di guerra. Sì, ma come ha fatto all'andata, no? Che ha fatto giocare due che neanche hanno fatto il ritiro. E non capisco, soprattutto perché le alternative non è che sono Messi o... Sono Bojan che si è mangiato 2 gol. Caprari che è un giovane, Okaka, Boriel a mezzo servizio, adesso Osvaldo. Cioè, non è che davanti sono la gente più forte di lui ha fatto... più di 280 gol in Serie A, cioè non può... Pietro, ma il fatto è che se ci mettiamo a discutere Totti è tempo sprecato, è evidente, no? È evidente tutto questo, è evidente anche il fatto che Totti sia un giocatore particolarmente pesante e importante, e quindi anche questa, mi viene da dire, è un braccio di ferro tra molte virgolette politico. Si tratta di capire se la Roma non vuole più Francesco Totti per mille motivi che dovrebbero spiegarci, e magari usa Luis Enrique, la sua faccia tosta, come esecutore materiale. Un'ultima cosa, sì. Ho sentito che l'altro giorno è uscito il catalogo dei nuovi prodotti della Roma, no? Sentivo che lì su internet ho letto così, e da quanto ho capito dentro non c'è un'immagine di Francesco Totti. Cioè ce ne sono di De Rossi, sì. Ma di Totti è stato anche tolto quasi proprio dai cataloghi della Roma. Ma io non so se stiamo scherzando, cioè, io veramente a questo punto, ma io vado anche in Serie B, ma io con lui ho visto Madrid, sono anche andato a vedere. No, ma la capisco da tifoso, ma Pietro, ma la capisco, la capisco perfettamente da tifoso. Un romanista che vede la Roma detottizzata non ci sta dentro più, ecco. Tutto questo è assolutamente normale, ha tutta la mia comprensione e solidarietà. Pur essendo romanista, no, ma trovo che ci sia questa manovra trasversale che probabilmente vuole allontanare Totti da Roma. Oggi si è presentato all'allenamento alle 8:30, sentivo prima in televisione, fatto un allenamento in campo, in palestra, era lì, adesso qualcuno mi verrà a dire qualcosa, mi verrà a parlare, nessuno se l'è filato e Totti con tutta la sua rabbia se n'è andato a casa. Ma non credo che Totti abbasserà la testa di fronte alla manovra in atto, ecco. Bah. Marco, provincia di Cremona. Buongiorno. Dica. Allora, io non sono d'accordo con lei quando parla di diritti per i calciatori, perché se si trattasse di diritti, d'accordo, tutte le categorie, a prescindere da quanto guadagnano, devono averli. Ma qua si tratta di abilità, perché se io, società, pago un attaccante 15 milioni sì. E lui dopo vuole andare via, allora rinnovi il contratto, ti lascio andare via, però rinnovi il contratto che almeno rientro di quei soldi, almeno in parte, non perché l'altra squadra magari ti dice se vieni via a parametro zero ti do 10 milioni invece che 5, sì. Allora non firmare il nuovo. Allora è giusto metterlo fuori rosa, e quindi è giusto metterlo fuori rosa, ricatto per ricatto, tu non vuoi firmare, hai un contratto per quest'anno e quindi sei tenuto a giocare per me, invece io non ti faccio giocare, ti metto fuori rosa in modo che te la faccio pagare, così, e l'anno prossimo ci sono molti casi di giocatori magari che vengono presi attaccanti a 20 milioni per 20 gol a stagione, poi ne fanno 6. Ci sono talmente tanti pacchi in giro che è giusto che le società ci sono tanti pacchi in giro, le società li comprano senza essere costretti, gli errori li fanno e insomma il rischio si corre da tutte e due le parti. Puoi prendere un giocatore che ti esplode, puoi prendere un giocatore che invece strapaghi, ma questo fa parte del gioco. Io penso che comunque se uno ha un contratto in essere abbia diritto anche di giocare, detto che da ambedue le parti, insomma, mi pare che i contratti abbiano poco valore in questo particolare momento storico. Giorgio, vorrei chiudere con te, abbiamo ancora due minuti, sull'argomento Pistorius, che è altra storia che ci accompagnerà attraverso questi mondiali di atletica. È un argomento molto, molto delicato, perché qui si va a finire un po', si finisce per incorrere un po' in quel discorso di demagogia. È chiaro che Pistorius ha buttato uno straordinario sasso nello stagno, no? Cioè, ha dimostrato che anche i diversamente abili con l'applicazione possono correre veloce. Così veloce, sinceramente, anche se io sono un addetto ai lavori di 40 anni, non pensavo, perché 45.07 il tempo che ha fatto lui, che sinceramente mi lascia qualche perplessità su, potrebbero anche forse ballare qualche centesimo in più, potrebbe aver usato i famosi arti artificiali super tecnologici che hanno un costo da 4.500 euro in più, e comunque lì farà i 400 piani, farà la 4x4 in prima corsia. È un personaggio che ha fatto tantissimo, tantissimo parlare di sé. Credo che poi molti non lo sanno, ma quelli che gli hanno fatto più la guerra non sono stati i normodotati, ma i diversamente abili, perché ci hanno visto in una disponibilità di budget particolare la capacità di potersi esprimere ad alto livello. Certo che anche con le protesi, senza produrre acido lattico nella fase terminale della gara, correre sotto i 46 secondi netti ti sembra tanta roba, vuol dire che comunque delle grosse qualità questo ragazzo ce le ha. Certo, ti ringrazio Giorgio, ci ritroveremo assolutamente per commentare i mondiali di atletica in corso d'opera, e noi ci ritroveremo domani dalle 5 alle 6, calcio non c'è ma noi sì, qui a parlare di sport, domenica dalle 5 alle 7. Grazie a Viola Bottoni in redazione, a Fabio Cantadori in regia, a domani.